Noi abbiamo un rapporto consolidato dalle Gevetal da oltre 10 anni, proprio qualche giorno fa avevamo fatto un po' il punto per capire qual era la situazione, dove ci avevano anticipato e annunciato la partenza del percorso di mobilitazione contro fondamentalmente la chiusura degli stabilimenti e i licenziamenti in Germania. Sosteniamo la lotta perché le condizioni sono molto simili e da un punto di vista generale la lotta dei lavoratori tedeschi è simile e uguale alle nostre di lotta per la difesa della tutela dei posti di lavoro, delle problematiche che sta vivendo il settore automotive, diverse matrici comuni tra Italia e Germania, oltre ovviamente al fisco, l'interscambio che c'è tra i due paesi, in particolare tra l'Emilia Romagna e la Germania nel campo delle forniture, anche perché anche in questa crisi, come tutte le altre, il tema è quello del profitto. Oggi il tema di Volkswagen non è una difficoltà a stare in piedi, noi guardiamo un attimo ai dati di bilancio dell'ultimo anno, sono comunque dati che garantiscono un utile all'impresa. Se vogliamo evidenziare i fattori della crisi dell'auto tedesca, dell'auto europea nel suo complesso, siamo a un gap di competitività basato sull'elemento tecnologico, non sul costo di lavoro come si possa pensare. Sostanzialmente da un lato i cinesi, da un altro lato quegli americani hanno sorclassato Volkswagen, se parliamo del caso specifico, di cui gli investimenti anche molto importanti, si parla di una 30 miliardi che sono stati investiti nel settore dell'elettrificazione della guida autonoma, non hanno superato questo gap. E quindi oggi il tema fondamentale è che, penso per esempio all'auto elettrica, abbiamo i produttori cinesi che hanno quote di mercato molto più importanti di quelle tedesche, dove i produttori europei nel complesso non reggono la concorrenza. Però possiamo dire che in Europa non si è puntato abbastanza sulla ricerca, quindi? Assolutamente sì, non si è puntato solo in maniera decisa e sostanziale sulla ricerca. Gli investimenti fatti pagano un ritardo. Quando parliamo di tecnologia e innovazione, il ritardo è sintomo di star fuori dal mercato. Basti pensare che rispetto al tema di un'auto elettrica entry level, Volkswagen punta ad avere un modello nel 2027, rischiano di essere già in ritardo rispetto all'auto cinese, al suo ingresso, che io vedo come probabile nei mercati europei, nei mercati occidentali. In questa situazione si aggiunge l'ambiguità e l'incertezza di Stellantis, abbiamo visto le dimissioni dell'amministratore delegato Tavares e si siete preoccupati per il destino degli stabilimenti in Italia? Ma guarda, eravamo preoccupati a prescindere dalle dimissioni di Tavares, cui non imputiamo, o come dire, non gli potevamo affidare un'opera di miglioramento rispetto alla condizione, anzi a lui imputiamo un percorso che vede oggi il suo punto forse più basso, speriamo il suo punto più basso, con una produzione di autoveicoli che rischia di non arrivare a 300.000 unità nel nostro paese, quando l'impegno preso con grandi fanfare col governo era di arrivare a 1 milione di autoveicoli. Siamo a un terzo rispetto a quell'impegno. Nelle fabbriche italiane c'è una presenza installata che può arrivare fino a 2 milioni di autoveicoli. Il tema è che l'era Tavares ha segnato un disimpegno rispetto alla produzione di autoveicoli nel nostro paese. Nessun nuovo modello, vediamo anche investimenti che potevano essere strategici, come quello della Gigafactory a Termoli, la fabbrica di batterie a Termoli, che non si sa che fine abbia fatto. Nessun nuovo modello, anche marchi di lusso che si pensavano dovessero vivere di vita propria, come ad esempio Maserati, che hanno visto un precipizio senza fine, oggi sono diversi mesi in cui i lavoratori stanno utilizzando gli ammortizzatori sociali. Questo è quello che lascia della Tavares, per cui la preoccupazione deriva da questi elementi, le sue dimissioni, alle sue dimissioni rispondiamo con uno schema che avevamo già fatto avanti. Serve un reale piano industriale di rilancio delle produzioni in Italia, che sia fatto di investimenti da un lato e di politiche industriali anche pubbliche, perché altrimenti per quei lavoratori la prospettiva è quella di cassa integrazione e quindi di impoverimento e quindi insomma non accettabile.